2024 di Enrico Pagliarini. Sono le 15:40 minuti, oggi in regia c'è Roberto Scaltritti che salutiamo, io sono Enrico Pagliarini, il nostro numero verde per chiamarci in onda. Tra poco parleremo di applicazioni e quanto ci è cambiata la vita grazie alle applicazioni, se naturalmente abbiamo uno smartphone, ma se non altro ne abbiamo sentito parlare. Dicevo, numero verde 824 0024, parliamo anche questa settimana dell'attacco informatico subito dal PlayStation Network, la rete che collega milioni di PlayStation in tutto il mondo e permette di videogiocare online, ma anche di acquistare musica, film attraverso un'altra piattaforma della Sony che si chiama Curiosity. Il network è fermo dal 19 aprile e dopo una lunga attesa questa settimana è intervenuto anche l'amministratore delegato della Sony, Howard Stringer, che scusandosi con gli oltre 70 milioni di clienti scrive sul blog ufficiale di PlayStation: ad oggi non c'è alcuna prova confermata del fatto che siano state sottratte in modo fraudolento informazioni personali o relative alle carte di credito e continuiamo a monitorare attentamente la situazione. Questa è la versione ufficiale, l'azienda ha ingaggiato alcune società di security per cercare di capire cosa è successo e ha promesso di riattivare i servizi entro fine mese, ma in questo weekend voci che si rincorrono su internet parlano addirittura di un possibile nuovo attacco al network e sarebbe il terzo. In attesa di sapere che cosa è successo e come si risolverà la situazione, ci facciamo una domanda. Sono cose che possono capitare o invece, se si fanno le cose per bene, non esistono rischi del genere? Risponde Dario Forte, esperto di sicurezza informatica e direttore dei DF Labs. Allora, fare le cose per bene limita il rischio, non lo azzera. Non sempre avere delle reti enormi significa fare automaticamente delle cose per bene che minimizzino il rischio, ed è questo a mio parere il caso di cui stiamo parlando. È un episodio questo che sicuramente è risultato estremamente famoso e molto discusso nell'ultimo periodo, però si contano almeno un'altra decina di casi molto simili e molto importanti negli ultimi 45 giorni che chiaramente non hanno avuto la cassa di risonanza di PlayStation Network, perché quest'ultimo impatta anche sul mondo consumer, ma che dal punto di vista del business sono altrettanto importanti. Riteniamo quindi che si tratti di una cosa assolutamente possibile, che dimostra di nuovo che security non è soltanto un discorso tecnologico, ma è un processo ibrido che va continuamente gestito per evitare problematiche ricorrenti. E nel caso specifico di Sony è uno, e questo possiamo dirlo, uno dei primi casi in cui attacchi di questa grandezza vanno ad impattare sulla posizione finanziaria, sia pure in maniera temporanea, dell'azienda che li subisce. Non parliamo soltanto chiaramente del titolo che cala, ma anche del danno dovuto al fatto che, sicuramente l'avrai già detto tu Enrico, ma lo ricordiamo, Sony si è dovuta chiaramente impegnare nei confronti degli utenti a prolungamenti di abbonamento piuttosto che innalzamento di servizi dati allo stesso prezzo. Questo rappresenta anche un danno molto importante che a sua volta poi incide su tutta la finanza dell'azienda in questione. Dopo le notizie che stiamo commentando oggi, che abbiamo commentato anche la scorsa settimana, relative al PlayStation Network, alcuni in rete, ma devo dire anche alcuni ascoltatori, hanno scritto alla nostra redazione, dicono: vedete che poi questi servizi, e quindi anche i servizi di cloud computing basati sulla rete internet, sono rischiosi. Ricordiamo che ci sono tantissimi servizi già oggi molto utilizzati anche a livello consumer che possono essere considerati di cloud computing, come ad esempio la Gmail o comunque ad esempio alcuni servizi di musica online, ma pensiamo a tutta quell'evoluzione del mercato che sta spingendo verso lo spostamento dei dati dall'azienda alla rete, quindi all'interno della nuvola di internet. Dobbiamo preoccuparci dopo queste notizie, cioè effettivamente questa spinta verso il cloud computing è un po' troppo rischiosa, potrebbe accadere qualche cosa? A mio parere e anche a parere di molti analisti, il cloud è sicuramente un fenomeno interessante, ma la parte sicurezza viene per molti anche volutamente trascurata, in funzione di quello che è il marketing piuttosto che il trend di business di questo relativamente nuovo metodo, perché il cloud computing, per chi conosce l'informatica, c'è sempre stato. In questo momento la preoccupazione da parte degli utenti è in aumento. Chi deve investire ingenti quantità di budget sul cloud incomincia a chiedersi con una certa attenzione quali sono i risvolti di sicurezza, ma non solo, Enrico, anche di responsabilità legale nei confronti di varie normative, perché è ormai assodato che il cloud sia direttamente proporzionale alla nebulosità e alla complessità della sua gestione. Pertanto chiaramente gli incidenti di sicurezza non significa che se avvengono nel cloud debbano essere gestiti esclusivamente da chi fornisce il servizio, ci sono già delle cause pendenti legali sul punto. L'episodio Sony, ma anche altri episodi molto importanti degli ultimi due mesi, devono far pensare sull'effettiva robustezza e sulla effettiva readiness, cioè l'effettiva preparazione a grossi incidenti di aziende che vogliono andare sul cloud. È una cosa ormai divenuta un must, una cosa obbligatoria che tutte le aziende di un certo livello incominciano a pensare, e anche questo fa pensare anche in ordine agli investimenti e anche in ordine al vero trend di mercato. Non vorrei che si trattasse di una bolla piuttosto che di una cosa realmente importante, realmente vincolante per le aziende. Senti, pensando al consumatore finale, al piccolo professionista, alla piccola azienda, penso ad esempio a questo trend di backup online, ad esempio, ne abbiamo parlato anche recentemente. Il consiglio quindi che mi verrebbe da dare, ma chiedo conferma a te, è: benissimo, utilizziamo questi servizi basati sulla rete, ma facciamo un ulteriore backup a casa nostra per essere proprio sicuri. Sono d'accordo e riassumerei in due step fondamentali i punti di controllo su chi vuole andare in cloud. Questo soprattutto per le piccole e medie aziende italiane può essere un'opportunità. Primo, guardare i contratti, che contengono poi a loro volta responsabilità in caso di mancata erogazione del servizio, addirittura impatti sui dati sensibili, e comunque tutto ciò che è protetto dalla legge privacy e da quelle correlate, e poi, come hai detto tu, bilanciare la distribuzione del servizio, cioè non affidarsi in toto a un fornitore di cloud, ma cercare comunque una ridondanza, nel caso specifico nel backup dei propri dati, soprattutto per garantire un recupero veloce. Ripeto, andare in cloud non significa automaticamente dimenticare le proprie responsabilità e le responsabilità dei dati nei confronti naturalmente dei propri clienti. Dario Forte ha fatto riferimento ad altri di servizi avvenuti negli ultimi due mesi. Sicuramente tra questi c'è stata l'interruzione di un importante data center di Amazon che fornisce servizi di cloud computing, e non dimentichiamo l'interruzione di alcune ore di Aruba, ne abbiamo parlato la settimana scorsa. In questi casi, cosa molto importante, non c'è stata perdita di dati, ma certamente la mancanza di accesso ai dati per alcune ore è un serio problema per molte aziende, per molti professionisti. Comunque, importante sottolinearlo, in questi casi non c'è stata perdita di dati, ma interruzione dei servizi. Un ultimo dettaglio sull'attacco al PlayStation Network: in Italia gli utenti coinvolti sarebbero poco meno di 1,5 milioni, 31 milioni negli Stati Uniti, 9 milioni in Inghilterra, 3 in Germania e quasi 5 in Francia. Adesso c'è la viabilità, riprendiamo tra poco. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024. Nella seconda parte ci occuperemo e parleremo delle applicazioni, le apps per smartphone, per tablet. Esistono due grandi negozi online di applicazioni, uno per tutti i prodotti della Apple, ovvero l'App Store, e tra l'altro su questo nome c'è anche una diatriba in corso negli Stati Uniti, perché la Apple vorrebbe registrare il nome App Store, la Microsoft ha detto no, come che tu volessi registrare la parola fruttivendolo, e vedremo come andrà a finire. Dicevo, c'è questo negozio e poi c'è l'Android Market di Google e altri mercati, negozi minori per le applicazioni destinate ad Android, ma non dimentichiamoci anche dell'Ovi Store della Nokia e anche del BlackBerry App World per tutti i prodotti della RIM. Adesso abbiamo alcune notizie della settimana. Digital News. È nata un'offerta congiunta fra Google e Pagine Gialle, Register.it e Poste Italiane per portare online le piccole imprese italiane. Tutto parte da un portale che è lamiaimpresaonline.it, dal quale un'azienda può scegliere il dominio, creare un sito internet e cominciare a fare promozione online dei propri prodotti o servizi e anche vendere online. Il servizio è gratuito per il primo anno e poi sarà a pagamento, ma con prezzi molto bassi. Secondo i dati di Eurisco, un quarto delle imprese italiane pensate a un sito internet. Digital News. Potremmo dire solo un quarto delle imprese italiane ha un sito internet. Altra notizia, mentre Wind, lo ricordiamo, è stata venduta ai russi della Vimpel.com, il portale libero.it, che faceva parte di Wind, rimarrà invece indipendente, è stato fatto uno spin-off e punterà su servizi online anche di cloud computing e sulla pubblicità online. Digital News. Fastweb ha lanciato Chili TV, un nuovo servizio di televisione on demand che consente di guardare film, cartoni animati e documentari. Alcuni di questi contenuti sono gratuiti, mentre la maggior parte, soprattutto i film, sono a pagamento. Si possono vedere su Smart TV, quindi TV connesse ad internet, computer, tablet, smartphone, lettori Blu-ray, sistemi home theater. In ogni caso è necessaria una connessione ad internet di almeno un megabit. Digital News. Apple ha reso disponibile l'aggiornamento software alla versione 4.3.3 per iPhone, iPod e iPad, che dovrebbe risolvere i problemi legati alla raccolta di dati di localizzazione. Ne abbiamo parlato ampiamente la settimana scorsa. Come abbiamo detto e ricordato, il tema è tornato alla ribalta dopo che se ne è parlato ad una conferenza negli Stati Uniti. Parliamo di una caratteristica dei prodotti dell'Apple che raccoglie all'interno dell'iPhone in modo particolare in un file anche dati collegati ai luoghi visitati dagli utenti. Negli Stati Uniti si sta parlando molto dei problemi di privacy connessi all'utilizzo degli smartphone e la prossima settimana Bud Trimble, che è vicepresidente dell'Apple per il software, verrà ascoltato al Senato degli Stati Uniti, così anche per Alan Davidson di Google. Si parla molto di questi problemi. Sapete che stiamo facendo il giro dell'Italia della tecnologia con Maria Chiara Grandis e a proposito di applicazioni, parliamo anche naturalmente di smartphone e di tablet. Maria Chiara, bentornata, dove ti trovi questa settimana? Buon pomeriggio Enrico, oggi siamo a Pagani, siamo in provincia di Salerno e siamo al punto vendita Expert. L'hai detto tu, parliamo di applicazioni, allora pensiamo subito a smartphone e a tablet. Perciò, proprio di questo, oltre che di come si muove poi il consumatore nell'acquisto di questi due prodotti, noi l'abbiamo chiesto al direttore del punto vendita, Gennaro Del Gaudio, che ci dà anche qualche notizia su come vanno le vendite proprio di smartphone e di tablet. Sentiamo. Sono prodotti venduti dai ragazzi, dagli adulti al professionista. Diciamo, rispetto al telefonino tradizionale, cercano di capire il rapporto qualità-prezzo, se conviene prendere per quello l'uso che ne debbono fare lo smartphone o il tablet, che va più per i professionisti o qualcuno che già sta entrando nella libera professione, tipo chi finisce l'università o meno. Gli smartphone sono più diffusi rispetto ai tablet oggi? Sicuramente sono i più diffusi, anche se i tablet, visto l'andamento di mercato e l'adeguamento dei prezzi rispetto all'inizio che sono usciti, pian piano sta acquistando sempre più quota di mercato. Il tipo di applicazioni che si possono utilizzare influenza l'acquisto di un prodotto piuttosto che di un altro? Sicuramente, perché oggi il consumatore medio di per sé già ha visto, diciamo, quello che lui può interessare o meno. Diciamo che i professionisti già sanno che cosa vogliono, quindi sanno già per certo quali tablet o smartphone hanno delle applicazioni chiuse che possono far sì al loro lavoro o al loro divertimento, perché voglio dire, ci cerca di equiparare il divertimento anche al lavoro, quel tempo libero di scaricare qualche gioco per come facciamo ognuno di noi, credo. E queste ultime parole ci danno il là per parlare proprio delle applicazioni. A questo sarà dedicata la seconda parte di 2024, cercando anche di capire qual è l'equilibrio tra il lavoro, quindi le applicazioni utili, e il divertimento. Ci risentiamo tra poco. 2024. 16:06 inizia la seconda parte di 2024 dedicata alle applicazioni. Io sono Enrico Pagliarini, a fianco a me c'è Gianfranco Giardina che dirige la redazione del magazine online dday.it. Gianfranco, bentornato, ciao. Buongiorno e bentrovati a tutti gli ascoltatori. Dunque, oggi parliamo di applicazioni. Io prima ho citato i negozi dai quali possono essere scaricate le applicazioni. Parliamo di sostanzialmente programmi che fanno una cosa e vengono installati su smartphone e tablet. Quindi io ho il mio smartphone, scarico questa applicazione, che ne so, posso vederci le previsioni del tempo. Sì, ci ad sono delle applicazioni di produttività, quindi anche che assistono per esempio le attività professionali nell'ufficio, applicazioni di gioco, applicazioni di informazione, quindi che ci collegano ai mezzi di informazione, come anche il meteo, oppure anche sul traffico, applicazioni anche un pochino più complicate come quelle di realtà aumentata che ci assistono nel turismo, che ci aiutano a trovare un hotel, insomma ce n'è veramente di tutti i tipi, sono centinaia di migliaia. Ricordiamo anche che esiste l'applicazione di Radio 24 per iPhone e iPad. Dovremmo effettivamente fare anche le applicazioni per Android, perché sta diventando sempre più importante, e anche di questo parleremo nel corso di questa puntata, e anche per BlackBerry. Abbiamo anche quella per Nokia, devo dire, quindi Nokia e iPhone sono supportati da Radio 24, quindi vi invito a scaricarla. A proposito di Nokia, diciamo che se non è stata quella che ha inventato le applicazioni non sono una cosa nuova, esistevano già nel mondo Symbian parecchi anni fa. Assolutamente sì, esistevano nel mondo Symbian come esistevano nel mondo Windows Mobile o Windows CE, ed erano semplicemente, come già succede per esempio su tutti i computer, dei programmi che è possibile caricare. Qual è la vera differenza che rende così potenti in realtà in questo momento le application? Ed è il fatto che si caricano su apparecchi assolutamente piccoli, portatili, con generalmente un touchscreen oggi, e quindi con la possibilità di avere un'interfaccia molto molto facile, che si comanda col dito, e soprattutto di essere su device che sono collegati a internet, e questo anche in mobilità. Ovviamente basta avere una connessione 3G disponibile. Questo dà l'accesso a tutte le informazioni che arrivano dalla rete, non soltanto tramite un browser, che in questo caso non sarebbe così comodo da utilizzare su un telefonino, ma in applicazioni che riorganizzano le informazioni secondo una modalità di utilizzo sicuramente più facile e più utile. Potremmo dire che per la prima volta nella storia dell'elettronica di consumo Ci sono questi smartphone che sono uno diverso dall'altro, cioè ogni possessore ha uno smartphone totalmente personalizzato, perché può caricare, anzi carica normalmente, le applicazioni che più fanno al caso proprio. Quindi, pur essendo modelli di serie, ognuno ha in tasca il proprio smartphone. Questo è il motivo per cui diventa veramente importante. C'è stato questo successo, questo boom. Il successo, il boom, è dovuto anche a un altro fattore. Noi abbiamo parlato di store, e quindi di negozi in cui si prendono queste application, e il negozio normalmente noi siamo portati a pensare che ci sia una transazione economica, quindi compriamo qualche cosa. Invece una gran parte di queste applicazioni sono gratuite per motivi promozionali, perché magari fanno capo a un'azienda, a un brand. Per esempio quella di Radio 24 è gratuita, può essere scaricata gratuitamente, quindi può essere fruita senza spendere nulla, e molte applicazioni, anche quelle che poi in versione completa sono a pagamento, sono disponibili in versione di prova, di test, gratis, o con dei banner pubblicitari, oppure in una versione dalle funzionalità leggermente ridotte, Light normalmente viene chiamata, in maniera gratuita. Questo permette a chiunque di provare, anche senza spendere una lira, moltissime delle applicazioni più diffuse, senza poi trascurare il fatto che poi l'applicazione più diffusa in assoluto e più utilizzata, che probabilmente è Facebook, è un'application che è gratuita. Prima stavamo guardando dei dati e sorprende il fatto che in quasi tutte le classifiche basate sulla piattaforma, una diversa dall'altra, quindi quella per iPhone, quella di Android, quella per BlackBerry, Nokia, eccetera, eccetera, Facebook è quasi sempre ai primi posti. Mette tutti d'accordo. Di questo parliamo in questa parte di 2024, allora vorremmo anche sentire la vostra voce e banalmente anche chiedervi qual è l'applicazione che vi piace di più. Se ci chiamate per dire Facebook, forse non ci date un grande valore aggiunto. Il nostro numero verde è 824 0024. Adesso ci colleghiamo con Maria Chiara Grandis per questo giro d'Italia della tecnologia. Allora, Maria Chiara, tu hai fatto, come ad ogni puntata, anche qualche domanda alle persone che hai incontrato. Sì, Enrico, perché abbiamo voluto capire se le applicazioni si scaricano per il lavoro, per il tempo libero, oppure quali sono quelle preferite. Abbiamo capito che non solo le utilizzano i professionisti, ma anche i ragazzi più giovani. E allora sentiamo le voci che abbiamo raccolto proprio nelle due aree dedicate, qui nel punto vendita Expert di Pagani, oggi siamo in provincia di Salerno, cioè le aree della telefonia mobile e dell'informatica. Sentiamo le interviste. Un BlackBerry, ma ho scaricato sinceramente un gioco e un'applicazione per la finanza, diciamo. Quindi lavoro e intrattenimento. Lavoro e intrattenimento, sì. Lei scarica le applicazioni? Un po' di tutto, iStore, di più i navigatori. Ci viaggio, faccio il camionista. Il tablet ce l'ha? No, intenzione a comprarlo. Solamente utilizzo Facebook, ma con il computer da casa. Proprio in questo momento stavo vedendo se riuscivo a trovare qualcosa di compatibile. Lei sta cercando uno smartphone? Sì, al momento sì. Quindi le applicazioni le scaricherà? Dipenderà dal prezzo, se sono gratuite le applicazioni, se sono invece sono a pagamento. Quelle gratuite o a pagamento? Le une e le altre. Secondo lei è facile? Abbastanza. Questo è proprio uno dei temi, gratis o a pagamento, deve essere molto interessante un'applicazione per essere scaricata a pagamento in un mondo che ci ha abituato, dico purtroppo perché siccome c'è un po' una deriva che sta un po' esagerata verso il tutto gratis. È vero, siamo abituati che quello che arriva da internet sia tutto gratis, però c'è una cosa, un elemento che sta facendo breccia nel cuore degli utenti, che sono i micropagamenti e delle applicazioni che costano anche meno di un euro. Quindi tipicamente un dollaro, no? E quindi 0,75-0,79 euro. E queste applicazioni magari sono anche molto interessanti, molto utili e costano veramente meno di un caffè. Qual è l'effetto dirompente? Si è visto che in alcuni casi, quando l'applicazione è veramente ben fatta o veramente molto utile, viene scaricata un numero talmente elevato di copie che anche quel piccolo contributo diventa un introito molto importante per il publisher di quell'applicazione. Sì. Quindi gratis o quasi gratis, è sicuramente interessante. A proposito di applicazioni molto scaricate, tra poco avremo alcuni ospiti, tra cui una persona che sviluppa software all'interno di Rovio, che è una casa di produzione finlandese che ha sviluppato Angry Birds. Alcuni di voi a sentire questa parola diranno Angry Birds, altri diranno ma che cos'è, ve lo spieghiamo tra poco. Adesso la viabilità, riprendiamo tra poco. Numbers 2024 Numbers. Qual è il numero di applicazioni disponibili sugli App Store delle principali piattaforme per smartphone? Numbers 2024. Nella nostra rubrica Numbers vi abbiamo domandato qual è il numero di applicazioni disponibili sugli App Store delle principali piattaforme per smartphone. Secondo varie fonti che abbiamo incrociato, nell'App Store della Apple sono disponibili circa 380.000 applicazioni. Ripeto, 380.000, quindi stiamo parlando di numeri incredibili. Nell'Android Market, quello di Google, sono circa 340.000 e secondo alcune società di analisi, in estate il negozio virtuale di Google dovrebbe superare quello della Apple per numero di applicazioni disponibili. 54.000 applicazioni sono disponibili su Ovi Store, quello della Nokia, 27.000 su BlackBerry App World e 16.000 su Windows Phone Marketplace, che è appunto il negozio virtuale per le applicazioni per Windows Phone 7. E questi sono i dati di mercato, ma naturalmente il numero di applicazioni disponibili non è tutto, anche perché se in un negozio vengono scaricate prevalentemente applicazioni gratuite, beh, quel negozio non ha un grande valore, mentre invece ha un grande valore se la maggior parte delle applicazioni scaricate sono a pagamento. È il caso dell'App Store della Apple, che se guardiamo i ricavi rimane di gran lunga il numero uno, quindi anche se quest'estate il numero di applicazioni, il mercato diventerà più grande per l'Android Market, probabilmente ci vorrà ancora molto tempo prima che su Android si crei così tanto valore. A proposito di applicazioni molto scaricate, saluto Marco Pifferi, benvenuto, bentornato 2024 Marco. Buongiorno a tutti. Tu Marco hai realizzato un'applicazione per iPhone un po' di tempo fa, molto scaricata, come si chiama? L'applicazione si chiama Around Me e risale al 2008, quindi proprio agli esordi dell'App Store per l'iPhone. Quante persone hanno scaricato, comunque quante volte è stata scaricata? Magari è stata scaricata circa 25-26 milioni di volte. Beh, un discreto successo. Solo in Italia oppure in tutto il mondo? No, in tutto il mondo. Che cosa fa questa applicazione? L'applicazione permette di cercare, utilizzando il GPS e la connessione di internet, delle attività che sono nella posizione dove ci si trova, per esempio le banche più vicine, i caffè più vicini, i ristoranti più vicini, eccetera, in maniera molto semplice, semplicemente selezionando appunto la categoria alla quale si è interessati, appare una lista di questi ristoranti, bar o banche, eccetera, che ci si trovano nelle vicinanze. Questa applicazione, cioè il successo di questa applicazione, potremmo dire che ti ha cambiato la vita? Sì, decisamente, diciamo che quello, questa applicazione è la mia attività principale, io mi occupo praticamente solo più di quello da appunto quasi 3 anni. Ecco. A scanso di equivoci, diciamo che l'applicazione va curata e mantenuta, non è che una volta fatta uno si ferma e vede il conto in banca crescere. Esatto, no, l'applicazione ha bisogno di costanti cure, aggiornamenti, migliorie, anche per adeguarsi, diciamo, per esempio alle nuove tecnologie che appaiono nei telefoni. Lo scorso anno, per esempio, è stata aggiunta la possibilità di utilizzare l'applicazione in augmented reality, che è una cosa di cui ho sentito che avete parlato prima, che è una prestazione che ha bisogno per funzionare di una bussola all'interno del telefono, e siccome negli ultimi telefoni sono state aggiunte queste bussole, è stato possibile aggiungere questa nuova funzionalità. Sì. Ecco. Quando parliamo di augmented reality, tradotto in italiano, anche se il termine non è bellissimo, però diciamo normalmente realtà aumentata, faccio un esempio giusto per farci capire: con uno smartphone che abbia un'applicazione di questo genere, se io questo smartphone sono davanti ad un palazzo, ad esempio, se con questo smartphone inquadro il palazzo, lo smartphone tramite la bussola, il GPS, sa dove mi trovo, ha delle mappe all'interno dell'applicazione, magari mi dice palazzo dove abita Gianfranco Giardina, ad esempio. Questo è giusto per fare un esempio. Allora Gianfranco, Marco Pifferi sviluppa per iPhone, si dice iOS, quindi il sistema operativo, certo, della Apple. Qua, se cominciamo a citare, tra poco incontreremo una persona che invece sviluppa per Android, qua cominciamo a dibattere un po' come si dibatte nel mondo del calcio, della politica. Ci sono proprio i partiti. E ci sono i partiti, perché le piattaforme non sono ovviamente uguali, non è così automatico che un programma realizzato per una piattaforma possa essere poi portato senza sforzo su un'altra piattaforma. Quindi in alcuni casi portare un programma con le medesime prestazioni da una piattaforma all'altra potrebbe significare quasi riscriverlo da capo, o comunque fare un intervento molto, molto pesante. Se ne vale la pena, ovviamente viene fatto. Cambia anche poi il modello di business in qualche modo che si lega, perché poi gli accordi che si fanno con Apple nel caso di Apple o con Google nell'altro caso sono completamente diversi, quindi poi bisogna anche vedere se a tutti piace quel modello di business, oltre che il fattore prettamente tecnico. Si stanno diffondendo chiaramente degli ambienti che permettono anche lo sviluppo di applicazioni con la facilità di poterle esportare in qualche modo, e quindi fare un porting quasi automatico per una piattaforma e per l'altra piattaforma e per l'altra piattaforma, così da essere multicompatibile. Va detto anche un'altra cosa: anche all'interno della stessa piattaforma esistono poi delle varianti, per esempio iPhone, iPad, che ha una risoluzione, è uno schermo più grande, quindi una risoluzione diversa e quindi delle potenzialità diverse. All'interno del mondo Android esistono tantissimi device, ora anche i tablet, e quindi ovviamente qui, anche lavorando in un solo sistema operativo, bisogna sviluppare poi diverse applicazioni per i diversi device. Andrea Baccega, benvenuto, grazie di essere con noi. Ciao. Andrea è amministratore di Androidiani, un portale che si occupa di Android, del mondo Android, e tu, devo dire che ho avuto un po' di difficoltà a trovare chi solo sviluppa per Android. Tu sei uno di quelli, giusto? Giusto, io sviluppo solamente per Android. Perché dobbiamo dire che molti sviluppatori sono partiti dal mondo iPhone e poi, vedendo la diffusione sul mercato, si sono spostati anche su Android. Dal tuo punto di vista, poi sentiamo Pifferi dal suo punto di vista, diciamo, su iOS, quali sono le particolarità che ti piacciono di Android? Allora, intanto c'è da precisare che, appunto, come ha detto il mio collega prima, Android e iPhone sono due mondi completamente diversi. La bellezza di Android, secondo me, sta nel fatto che sia open source, e con questo non è solamente, cioè, open source, per chi non lo sapesse, vuol dire che è libero di essere modificato da qualsiasi persona, e questo non è solamente una filosofia, ma in realtà viene presa e abbracciata da tutti gli sviluppatori Android, che non vedono l'ora di condividere le loro esperienze e i loro programmi con il resto del mondo. Questo però dal punto di vista del programmatore, a me utente finale potrei dire, a me interessa molto poco. Come utente finale, la bellezza di Android sta nel fatto che io posso customizzare, se mi passi il termine, il cellulare come voglio. Personalizzare. Esatto, posso modificarlo come meglio mi pare. Così come anche con iPhone. No, iPhone ha un livello di personalizzazione molto minore. Okay. Android ti permette di personalizzare il tuo cellulare, diciamo, dall'inizio alla fine. Chiaro. Mentre con iPhone c'è qualche limitazione in più. Sì. Molte limitazioni in più. Poi ci torniamo. Pifferi, c'è, immagino, visto che lo sviluppatore deve guardare anche al mercato, è ancora vero, secondo te, che nel mondo iOS girano più soldi? La mia esperienza personale è questa. In questo momento gli utenti iPhone tendono ad acquistare più applicazioni rispetto agli utenti Android, che si aspettano di trovare molte più applicazioni gratuite. Questa è un po' la mia esperienza personale, ecco. Saluto Marco Rapino da Helsinki. Benvenuto, Marco. Ciao Enrico, buon pomeriggio. Grazie di essere con noi. Io qualche giorno fa ho scritto a Rovio, che è un'azienda che sviluppa software in Finlandia ed è nota in tutto il mondo per aver sviluppato Angry Birds, convinto che c'è sempre qualche italiano un po' ovunque nel mondo, però ho detto ci sarà forse anche all'interno di Rovio, quindi sono contento che oggi tu puoi essere tra noi. Per chi non lo conosce, che cos'è Angry Birds? Allora, Angry Birds è gioco per piattaforme cellulari e non solo, perché adesso è uscita anche la versione per PC Mac OS X. È disponibile su diversi market, sull'Apple Store, sull'Android Market, sul Palm Store. Per chi non lo sapesse, Palm è un altro tipo di piattaforma mobile, sull'Ovi Store per dispositivi Symbian, e penso sì, ecco. Cioè siano, questi sono, sì. Sì, questi no, sono, non c'è per BlackBerry? No, non ancora. È stato disponibile per Windows Mobile. Sì, è stato un grande successo e devo dire che Gianfranco Giardina me l'ha fatto vedere parecchio tempo fa e subito io non avevo dato un grande peso. In realtà Gianfranco è diventato un fenomeno mondiale, potremmo dire che è l'applicazione più scaricata nel mondo e nella storia. Non ho i dati certi, ma sicuramente è il gioco più giocato, credo, in Italia e comunque tra tutte le persone che mi circondano. Tutti lanciano questi uccelli volanti che vedevano distruggere delle strutture e per ottenere poi un obiettivo, ma è comunque molto molto divertente. Ma credo che il fattore chiave di questo gioco è che è terribilmente facile da usare. Sì, sì. E non c'è bisogno di leggere nessuna istruzione, si piglia, si parte, poi la gradualità delle difficoltà dei vari quadri ti spinge poi pian piano a apprendere nuove tecniche di gioco, ecco, diciamo. Sì. Così, ma infatti vorrei chiedere a Marco Rapino, secondo te e secondo voi di Rovio, perché ha avuto così tanto successo questo videogame? Io penso che ogni volta che esce un nuovo software, un nuovo applicativo, ci sono diversi fattori. Innanzitutto la facilità, come appunto diceva Gianfranco, di utilizzare l'applicativo, di imparare la meccanica di gioco. Io credo che Angry Birds sia un videogame molto casual, nel senso che può essere giocato per 30 secondi, un minuto, 5 minuti. Ho visto anche gente giocare per ore. sì. Così come uno giocherebbe a un gioco per console. Ma io credo che uno dei fattori di maggiore rilevanza sia stato il prezzo innanzitutto, perché ricollegandomi a quello che dicevate prima, 79 centesimi è un prezzo veramente molto molto basso e per il quale le persone sono disposte a pagare. Poi c'è da dire che il prodotto è uscito per Apple Store, quella è stata il primo market su cui noi abbiamo investito. E qui già possiamo notare la grande differenza che c'è fra Apple Store e Android Market, dove invece il nostro applicativo viene rilasciato gratuitamente. Quindi c'è meno propensione all'acquisto su Android? C'è meno propensione perché io credo innanzitutto che per utilizzare l'Android Market qualunque utente ha esclusivamente bisogno di un account Gmail, non ha bisogno di registrazione di carta di credito, cosa che invece l'Apple Store chiede all'utente un numero di carta di credito per riconoscere appunto l'utente finale. Quindi sì, qualunque acquisto viene fatto sull'Apple Store, anche se si tratta di un'applicazione gratuita, è necessaria una carta di credito. Sì, da un certo punto di vista questo facilita poi anche tutti gli acquisti, perché una volta che io mi sono registrato la prima volta posso cliccare su compra, acquista in modo molto, molto semplice, molto facile. Torneremo ad Helsinki tra poco. Volevo salutare un altro Marco, ci sono un sacco di Marco oggi, dalla provincia di Treviso. Buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno a lei e a tutti gli esperti che sono in linea. Io non sono un esperto, ma sono uno che circa un anno e mezzo fa ha preso l'iPad e avendo un piccolo studio, una piccola agenzia, mi ci sono messo a pensare, a capire cosa fare, cosa non fare con questo strumento. E praticamente volevo chiedere due cose. Prima di tutto, cosa pensate della tecnologia Woodwing per le pubblicazioni, perché principalmente noi facciamo pubblicazioni, e che sviluppo possono avere queste pubblicazioni, non le applicazioni, proprio cataloghi, intendo dire anche dell'industria, inserite nell'Apple Store, e le pubblicazioni anche dal punto di vista culturale o riviste e compagnie belle. Dunque Marco, un suggerimento, scrivici un'email, perché non vorrei che andassimo troppo sul difficile, sul complesso, cose per addetti ai lavori. Hai altre domande o... No, beh, mi fermo questo, però allora non so se questa è una cosa troppo specifica, però sì, volevo essere molto generico, perché se pensiamo ai 300 milioni che fra un paio d'anni saranno i pezzi di tablet distribuiti nel mondo, diventa una grande potenzialità per comunicare e divulgare quello che può essere semplicemente il catalogo, che andiamo a divulgarlo in 5.000 pezzi provincia e via. Questo era il motivo. Non so se è troppo tecnico, comunque magari le mando un'email sicuramente. Quello di sicuro, poi sentiamo magari Pifferi se ha una risposta. Le 16.29 minuti, adesso c'è la pubblicità, vi ricordo il nostro numero verde per chiamarci, oggi parliamo di applicazioni, potremmo dedicare ore e ore di trasmissione, anche una trasmissione alla settimana, a questo mondo, perché veramente c'è stata un'esplosione negli ultimi anni del mondo delle apps. Numero verde 800 24 0024. 2024. Tra le tante domande che sono arrivate o tante considerazioni che sono arrivate anche via SMS, anche se io ripeto che mi piace più sentire la vostra voce, essendo noi alla radio è una componente fondamentale, la voce, anzi una delle poche che possiamo fornire, dicevo, tra le tante domande c'è un ascoltatore che dice: ma quante sono le applicazioni veramente utili? Credo una percentuale molto ridotta. In effetti, se pensiamo, come dicevo prima, che nei market principali ci sono 350, ci saranno tra poco 400.000 applicazioni, quelle veramente utili sono poche, ammesso che quelle poi più scaricate siano anche corrispondenti a quelle utili, perché anche su questo c'è dibattito. Sentiamo Luigi che ci telefona da Torino, dove oggi c'è il Giro d'Italia. Luigi, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ti ascoltiamo. Sì, io volevo dire una cosa, sono passato da diversi sistemi operativi a bordo di smartphone dall'inizio, sui Symbian Nokia, per poi lanciarmi sul nuovo sistema iOS di iPhone quando è uscito. Li ho provati quasi tutti, però Android secondo me risulta essere il sistema molto molto molto più bello, più pratico, ma soprattutto ti appaga nell'utilizzo dello smartphone, tant'è vero che comunque se andiamo a vedere le statistiche di vendita, i telefoni più venduti con a bordo il sistema operativo ultimamente Android sta battendo alla grande gli altri sistemi. Devo dire, Luigi, che purtroppo questo non è motivato dal fatto che è più bello, che è più facile eccetera eccetera, ma un buon motivo è dovuto al fatto che ci sono telefoni che costano anche molto poco, con 150 euro si compra un telefono con a bordo Android, mentre invece per avere un prodotto Apple bisogna spendere parecchi parecchi soldi. Però insomma, tu giustamente dici: sono contento e mi piace questo sistema operativo. Andrea Baccega, tu dicevamo sviluppi per Android, che applicazioni hai fatto, stai facendo? Io ho sviluppato una ventina di applicazioni da quando diciamo ho iniziato con questa passione. Ne ho sviluppate dalle più disparate a quella più semplice, che ti dice le tue coordinate e permette di condividerle con i tuoi amici tramite SMS o email, a quella ufficiale del sito che gestisco insieme a un mio amico qua di Jesolo. Quindi ne ho fatte una ventina, dicevo. Ne ho fatta una addirittura della Vodafone, che non ufficiale, che permette di tenere conto del traffico disponibile nel proprio telefono semplicemente dando un'occhiata allo schermo, e ne ho fatte veramente tante. Senti, tu pensi che ad oggi, guardando il mercato ad oggi, si possa vivere di sole applicazioni per Android? Secondo me sì, come diceva il ragazzo che è intervenuto prima di me, Android sta crescendo veramente in maniera spropositata. Negli ultimi 3 anni è cresciuto di 6 volte il numero di dispositivi con a bordo Android, e questa cosa qui, a parte il fatto che, come dici te, Android è montato su più dispositivi contemporaneamente e non solamente su quelli di fascia alta, apre nuovi mercati, mentre su iPhone sappiamo che abbiamo un target diretto di persone che comunque hanno una certa disponibilità di soldi e comunque giovanile. Qui abbiamo con Android la possibilità di andare ad intaccare su un mercato che prima magari non era scoperto con iPhone. Sì. Giusto, perché abbiamo dispositivi con diverse fasce di prezzo, e non per questo comunque diverse fasce di prezzo non precludono la bontà del terminale, insomma. Sì. Volevo un parere da Marco Rapino da Helsinki. Voi sviluppate per tutte le piattaforme, quindi a maggior ragione tu sei super partes. Come vedi due mercati e due sviluppi paralleli? Apple Store e Android Market. Sì, sì, esatto. Poi naturalmente per il momento consideriamo un po' meno, visto che c'è meno fibrillazione su Ovi Store di Nokia e BlackBerry, anche Windows Phone, però, perché ci concentriamo sui due che stanno crescendo di più, dove anche c'è il numero di applicazioni più elevato. Certo. Io quello che posso dire da parte nostra in rovio: il problema più grande che abbiamo con Android è la grandissima frammentazione che c'è nel market o nel mercato dei dispositivi. Abbiamo tantissimi dispositivi Android che hanno specifiche tecniche completamente diverse. Se noi sviluppassimo applicazioni generiche, ad esempio applicazioni per la gestione di posta elettronica, SMS o Facebook, ok, questo non avrebbe alcuna importanza, ma dal momento in cui noi lavoriamo in un settore come quello videoludico, dove le performance contano più di tutto e le specifiche tecniche influenzano davvero la resa dell'applicazione finale, con Android abbiamo non pochi problemi, perché tutti quei dispositivi di fascia medio-bassa, per fare un esempio, non so, un HTC Wildfire, che è un dispositivo di fascia medio-bassa, sicuramente poi all'utente finale non offre la migliore delle esperienze quando prova a giocare ad Angry Birds, mentre per dispositivi iOS questo problema non si presenta, perché d'altro canto Apple è riuscita a creare un sistema chiuso, sì, su questo do ragione ad Andrea di androidiani.com, che Android da questo punto di vista è di gran lunga superiore, cioè un sistema aperto che dà la disponibilità all'utente finale di utilizzare il proprio telefono come meglio crede. Sì, sì, sì. Però iOS d'altro canto ha creato un sistema piatto, diciamo, quando un applicativo viene rilasciato, noi sappiamo che una volta che è stato testato su uno o due dispositivi, perché i tipi di dispositivi attualmente in commercio non differiscono di molto se non tra la prima generazione e l'ultima generazione, noi siamo sicuri che il prodotto finale poi avrà la stessa resa per qualunque utente. Sì, devo dire che io personalmente sono più favorevole come filosofia al mondo Android, però devo dire che il risultato finale, almeno ad oggi, dimostra che i prodotti Apple funzionano e funzionano molto bene, mentre dalle prove che anche io ho fatto a volte si incappa in qualche problema nel mondo Android. Vorrei sentire Andrea che ci telefona da Piacenza. Buongiorno Andrea. Buongiorno, innanzitutto complimenti per la trasmissione che seguo assiduamente, complimenti davvero. Grazie molte. Grazie. E volevo fare due considerazioni. Abbiamo detto che ci sono circa centinaia di migliaia di applicazioni sia per Android che per iOS. Volevo un attimino poi rammentare che probabilmente chi possiede uno smartphone in realtà riconosce che le utility veramente che usa frequentemente sono innanzitutto in un numero limitato poche e diciamo, l'uso che se ne fa probabilmente non è quotidiano, ma magari quando si è in vacanza si ha bisogno di un'informazione o di un servizio e quindi l'utility in effetti riesce a aiutarci contestualmente a una situazione probabilmente non quotidiana. Temo che queste migliaia di applicazioni, dalle più chiamiamole poco utili a quelle molto utili, ecco, in realtà probabilmente fanno leva sul desiderio di usare lo smartphone e quindi di provarne tante. Da qua volevo fare forse una domanda un pochino tecnica del tipo, visto che lo smartphone, le utility per gli smartphone sono presenti anche in un numero molto alto gratuite, soprattutto nel mondo Android, più che forse nel mondo iOS, ecco, il continuare a acquistarne o a caricarne e a disinstallarne perché presi magari soprattutto nel primo periodo di possesso di uno smartphone nel trovare tante utility, può in qualche modo far sì che il nostro smartphone ne esca un po', tra virgolette, malmenato da questa operazione di installazione? Sì, sì, se va in tilt lo smartphone se si installano troppe applicazioni. Vado da Marco Pifferi che sicuramente ha una risposta. Marco? Allora, io direi proprio di no, in particolare per il mondo Apple sicuramente questo non è un problema, ma per quanto mi risulta la stessa identica cosa si applica per quanto riguarda il mondo Android, a meno che non ci siano problemi diciamo tecnici di qualche applicazione in particolare che nel caso di Apple tutte le applicazioni devono passare una specie di controllo da parte di Apple che verifica che rispondano a certi requisiti e che quindi siano in qualche modo un po' più sicure. Quindi la risposta è no. La risposta è no, esatto. Sì, non manda in tilt il telefono, insomma. Probabilmente no. Va in tilt se si tengono aperte tante applicazioni, non so. Diciamo che quelle Android possono rimanere aperte anche quando non stanno funzionando, diciamo non sono in primo piano. Quindi sulla piattaforma Android è un pochino più complicata. Sicuramente per quanto riguarda Apple la risposta è no. Marco, io ho chiesto anche a voi che siete intervenuti in questa trasmissione di fare una mini classifica delle applicazioni che vi piacciono di più, eccetera. Ma a parte la tua, quindi Around Me, lo ricordiamo, che cosa suggerisci di scaricare e di provare? Ma secondo me tra le applicazioni più interessanti c'è sicuramente Instagram, che è un'applicazione che permette di scattare delle fotografie e di condividerle con tutto il mondo. La cosa interessante è che nonostante l'applicazione a prima vista sembri semplicemente un'applicazione per fare le fotografie, è il fatto che in realtà si tratta di un social network dove invece di condividere un qualcosa che normalmente si scrive nella propria lingua, si condividono delle immagini, quindi è molto facile intrattenere diciamo dei rapporti, fare delle amicizie con qualcuno che vive in un paese che non è che parla una lingua della quale è assolutamente impossibile imparare anche soltanto dire ciao, ecco. Quindi io trovo che il concetto dietro questa applicazione sia molto interessante. Ok. Poi? Poi è uscita da poco l'applicazione di Al Gore che si chiama Our Choice, che si tratta di un libro interattivo fatto in una maniera veramente molto innovativa, dove l'intera storia raccontata attraverso filmati, immagini, eccetera, in una maniera molto, molto semplice, dove toccando le varie immagini si possono far partire i filmati, ed è veramente interessante come, come la cosa sia stata sviluppata, e consiglio chiunque abbia un iPhone oppure un iPad di provare ad installarla. Terza e ultima applicazione. Terza e ultima applicazione, io direi un'applicazione divertente che è assolutamente non utile, però anzi, volendo è anche un pochino utile, però si tratta di una cosa più che altro divertente, si chiama Steak Master, e lo scopo di questa applicazione è quello di cuocere a puntino una bistecca. Quindi l'applicazione chiede quando si parte lo spessore della bistecca, il tipo di bistecca, e poi dopo che uno ha messo la bistecca su un grill, eccetera, dà i tempi esatti per girare la bistecca, eccetera, facendo attraverso un'animazione simulando la cottura. Questo è molto divertente, non ha una grande utilità, però certo. È divertente. Molto bene, grazie a Marco Pifferi, io ti saluto, ti ringrazio per essere stato con noi, a presto. Ciao. Andremo tra poco da Andrea Baccega e anche da Marco Rapino, adesso c'è la Via Militare, riprendiamo tra poco. 2024. Ultima parte di 2024 dedicata alle applicazioni. Andrea Baccega, anche a te ho chiesto una mini classifica per il mondo Android, immagino, oltre anche alle tue, ma penso che se uno vada su androidiani.com possa trovare insomma tutte le indicazioni del caso. La tua classifica? Allora, la prima in assoluto è TweetDeck, che è un'applicazione che permette, ed è multipiattaforma, quindi probabilmente esiste anche per iPhone, no? Permette di tenere, di una volta aver fatto il login su Twitter, Facebook, Booth, che è l'ultimo social, semi-social di Google, e Foursquare, di tenere tutti quanti questi social network su un'unica applicazione. Quindi non dobbiamo più installare quattro applicazioni dedicate, ognuno per ogni social network, ma ci basterà utilizzare questa applicazione unica per avere tutto sotto controllo e interagire appunto con i vari social network. Quindi TweetDeck, perfetto. Esatto, TweetDeck. Perfetto. Poi? La seconda, che è anche questa multipiattaforma, quindi esiste anche per iPhone, è WhatsApp, che è un'applicazione che praticamente ci permette di interagire inviando semi-SMS, poi adesso capirete perché, da uno smartphone a un altro senza pagare niente. Come funziona? Funziona che se io ho questa applicazione installata sul mio smartphone e anche la mia ragazza, supponiamo, ce l'ha installato, io posso comunicare con lei tramite questa applicazione senza spendere alcun centesimo. Sì, diciamo, se io ho un piano dati, esatto, vado con quello. So. Okay. Esatto, Android diciamo lo richiede, un piano dati, quindi... Sì, sì, sì, sì. Diciamo che ormai tutti gli smartphone prevedono che... Cioè, bisogna averlo, sennò sì, si fa così. Non ha senso avere uno smartphone, altrimenti... Terza applicazione. Allora, la terza applicazione, anche questa è sia su Android che su iPhone, Shazam o SoundHound, sono praticamente simili, ed è la famosissima applicazione che permette di riconoscere i titoli delle canzoni semplicemente facendogli ascoltare un pezzetto, diciamo una decina di secondi, e lui ti dice autore, titolo, album, eccetera, eccetera. Una volta si telefonava alle radio, magari locali, si canticchiava la canzone, qualcuno dall'altra parte ti diceva che canzone era. Oggi c'è l'applicazione per smartphone. Esatto. Andrea, esatto. Ti ringrazio, in bocca al lupo anche per androidiani.com, a presto, buon lavoro. Grazie altrettanto, ciao. Prima di sentire Marco Rapino con la sua classifica da Helsinki, vorrei sentire prima Gianni da Roma, poi Carla da Milano. Gianni, buongiorno. Sì, buongiorno. È un'informazione, non sento mai parlare per questi dispositivi di problemi legati a virus e quant'altro di sicurezza. Quindi volevo sapere qualcosa in più per appunto l'ambito della sicurezza, la protezione dei dati, se c'erano dei rischi. Chiarissimo, perché, chiarissimo. Grazie Gianni. Carla da Milano, buongiorno. Buongiorno. Io volevo segnalare un'applicazione utile. Oggi non è ancora su tutte le piattaforme. Io purtroppo ho un BlackBerry e su questa non c'è, ed è un'applicazione resa disponibile dall'Associazione Italiana Celiachia, che consente appunto di scaricare il prontuario. Il problema maggiore andando in giro è che non sempre si ha dietro il prontuario per consultare i prodotti senza glutine, e queste applicazioni sono sicuramente utilissime. Io ho un ragazzo di 13 anni che comincia adesso appunto a portarsi dietro abbastanza regolarmente il cellulare, quindi va in un bar, va in un supermercato a comprare qualcosa, sarebbe utile appunto poter consultare online direttamente tramite questi applicativi il prontuario. E sono applicazioni che sono sviluppate ovviamente gratuitamente per l'associazione, oggi non sono ancora disponibili su alcune piattaforme, per cui se qualcuno sì. fosse disponibile a farlo, renderebbe sicuramente un servizio utile. Molto interessante e molte grazie. Dunque, abbiamo pochi minuti, allora volevo fare una considerazione con Gianfranco Giardina, perché che è importante, cioè questo modello delle applicazioni sta diventando importante e lo stanno copiando anche per il mondo PC e anche per le TV. Sì, è proprio questo modello sperimentato per la prima volta sugli smartphone, torna indietro, torna dai papà computer, tanto per intenderci, che i programmi ce li avevano già da anni, ma con altri modelli distributivi. Infatti è nato l'App Store su piattaforma macOS, e con Windows 8 è già stato annunciato che verrà lanciato un App Store anche lì per programmi ovviamente Windows, e quindi questo modello con un login solo e con i micropagamenti e con i publisher che possono pubblicare in questi negozi i programmi sta diventando un modello che vedremo anche sui PC, come già lo stiamo vedendo sugli smart TV. Quindi sui TV connessi a internet, che possono anch'essi scaricare dai loro marketplace delle applicazioni per gli utilizzi più diversi. Dunque andiamo a Helsinki. Marco, abbiamo poco tempo, allora a Gianni da Roma sui problemi di hackeraggio non facciamo in tempo a rispondere, anche se effettivamente dedicheremo, adesso me lo scrivo, dedicheremo una parte della puntata a questi problemi che esistono e ci sono. Marco, una tua mini classifica in un minuto sulle applicazioni che ti piace suggerire agli ascoltatori. Sì, allora, come Andrea di androidiani.com aveva già suggerito, WhatsApp è una di quelle che utilizzo di più, perché avendo un piano dati limitato posso mandare SMS. È molto comoda. Allora, le altre due quali sono? Le altre due sono Astro, che è un gestore, è un file manager, ovvero permette all'utente di gestire i file sul proprio dispositivo, come se si fosse su Windows. Ok. Posso vedere le cartelle, file. Abbiamo il tempo per un'ultima. Sì, l'ultima è Spotify, per chi conoscesse già il servizio, un servizio di streaming di musica online. Sì, però temo, Gianfranco, che in Italia non sia disponibile Spotify. No. Perché tu sei fortunato, ti trovi in Finlandia e funziona. Marco, la versione premium è disponibile. Può essere, andremo a controllare. Marco, io ti ringrazio per essere stato con noi, ti auguro buon lavoro, magari ti richiamiamo presto per un'altra puntata dedicata alle applicazioni. Concludiamo con Maria Chiara Grandis in un minuto. Sì, Enrico, abbiamo fatto una chiacchierata qui all'Expert di Pagani con gli addetti alle vendite per capire come si muovono i consumatori. E allora sentiamo Alessandro Franco del reparto telefonia e poi per le applicazioni su tablet Pietro Somma. Ecco qui. Chi sceglie uno smartphone oggi lo sceglie innanzitutto per avere un sistema operativo aperto ad altre applicazioni. E quali sono le applicazioni che vanno di più? Nella maggior parte videogiochi e social network e pacchetti Office ed email per un utilizzo business. Ma in generale si paga per acquistare un'applicazione? Nella maggior parte dei casi tendono a scegliere l'applicazione gratuita. C'è una richiesta particolare che vi è stata mai fatta sulle applicazioni? Di solito anche la navigazione GPS. Richiedono che tipo di navigatore uno smartphone ha all'interno, che tipo di navigatore possono scaricare all'interno. Chi è il consumatore che acquista un tablet oggi? Ha un'età media dai 24 ai 40 anni ed è soprattutto il libero professionista, che possa essere comunque l'avvocato, il giornalista, ma anche molto importante l'arrivo degli studenti, che comunque sta comunque aprendo questo mercato. Quali sono le applicazioni più scaricate sui tablet? Facebook Mobile, c'è Skype per comunque la messaggistica, anche per le videochiamate. C'è qualche altro programma tipo l'Air Video per vedere i film in HD, oppure la BC Player, per le visioni delle serie TV, e tra l'altro sta comunque prendendo molto piede anche l'iBook per la lettura dei libri, diciamo, su questi dispositivi. A proposito di libri, vi ricordo che la prossima settimana saremo in diretta dal Salone Internazionale del Libro di Torino, nel pomeriggio di sabato. Vi aspettiamo perché c'è anche una platea dalla quale potrete fare domande. Quindi dalle 15.30 alle 17, 2024, in diretta da Torino la prossima settimana. Ringrazio Gianfranco Giardina per essere stato con noi. Gianfranco, grazie. Torniamo presto a fare una puntata sulle applicazioni, perché abbiamo ancora tante cose da dire. Tantissime cose, anche molti ascoltatori ci hanno chiamato. Noi ci sentiamo la prossima settimana. Grazie a tutti. 2024.